Ciao. Ciao Radio Default, ciao a tutti. Salve, salve a tutti, salve da Eddie. Siamo un po' timidi. E vabbè, spieghiamo un pochino questi due spazi delle arti performative. Abbiamo creato uno spazio con programmazione, quindi dedicato a gruppi come gruppi musicali che hanno scelto di sostenere il festival senza in qualche modo essere retribuiti, facendolo soprattutto per sostenerlo, appunto. E ieri ci sono stati tre gruppi, soprattutto di danza, diversi tipi di danza, contemporanea, danza di ricerca e pure una performer che faceva danza indiana tradizionale. E oggi pure ci saranno altri quattro gruppi, uno di teatro e altri tre di danza, e domani invece ci sarà il grande finale con due ragazze che fanno circo e la palestra del Laurentino 38 Squat, che porterà la pole dance, la grande esibizione sull'evento che concluderà il festival. E oltre, insomma, a questo spazio abbiamo creato anche un'altra situazione che, diciamo, dedicata all'improvvisazione, che è un piccolo spazio arredato con degli oggetti un po' così inusuali. Non so, c'è una lavagna, c'è un divano, c'è un abat-jour, insomma ci sono degli oggetti che rappresentano una cyclette, che ricostruiscono un po' un arredamento interno, e all'interno del quale chiunque vuole sale su questo spazio, si accende la luce, quindi non ci sono persone, tecnici, insomma, che gestiscono la cosa, si fa proprio da soli, e improvvisando fanno un intervento rispetto al tema, che è liberare lo spazio, quindi che può essere sia contestualizzato qui nel ZK, insomma, che è uno spazio occupato, ma anche può essere libero e astratto come idea. Sì, allora, innanzitutto, secondo me, cioè, questa cosa nasce da un'idea un po' di far interagire diverse espressioni, quindi il corpo, il lavoro sul corpo, il lavoro con la musica, il lavoro pure, insomma, magari con altre forme. Recentemente, cioè, poi pure con le ragazze della radio abbiamo fatto questa performance all'Orto Botanico, in cui c'era l'interazione con la mostra fotografica, quindi un pochino, cioè, secondo me è figo spingere un po' proprio sull'interazione, perché poi l'arte ha compartimenti stagni, no? È un po'... non dico fino a se stessa assolutamente, però è un po' limitata rispetto... Infatti nello spazio, quello in particolare improvvisato, cioè c'è proprio questo tipo di esperimento, no? Di abolire un po' il rapporto, io sono l'artista e quindi ti presento il mio lavoro, che sì, va bene, cioè, nel senso, è figo che poi uno condivide il suo lavoro, però c'è sempre un po' un distacco tra chi fa e chi osserva. E l'esperimento dello spazio improvvisato era proprio quello di coinvolgere anche chi in genere guarda e basta, e quindi sali da solo su un palco oppure su uno spazio, che poi, come dicevi te, i palchi non è che ci piacciono tanto, perché comunque si ricrea proprio pure a livello visivo un po', cioè, questa verticalità, no? Questa gerarchia. E quindi vai in uno spazio, accendi di te la tua luce e fai quello che ti senti, perché poi alla fine, che uno lo esprima con parole, come magari in una radio, come in altre situazioni, che lo esprima con la musica, che lo esprima col corpo, alla fine sono tutti strumenti di comunicazione, no? E che magari si dice la stessa cosa in diverse forme, e che in un modo o nell'altro poi arriva sia a te che fai, che magari la comprendi meglio, e sia a chi vede, significativa rispetto all'interazione tra le diverse arti, diciamo, tra le diverse forme espressive, il fatto che in questo modo si valorizzano di più tutte, no? Quindi, che ne so, so, mi vedo una mostra e la vedo rispetto a certi criteri a cui sono abituato, se la vedo in un modo che scardina un po' il mio modo usuale di vederla, la valorizzo di più e la vedo da un altro punto di vista e quindi mi crea un po' una curiosità, un nuovo modo di affrontare, di vedere le cose e magari... Le ragazze quelle tutte belle che facevano tutta la performance tutte insieme, hanno fatto come un disegno di luce, di colore, tutto così. Poi si è fermato e è apparsa una donna indiana nei veli, si vedevano sì tutti questi veli arancioni. E stava sempre a girare i sonagli, le cose, sì, stava sempre a girare su se stessa. Beh, perché poi c'era pure quest'altra forma d'arte che era la pizza, l'arte culinaria che è sempre presente all'interno del festival. I gruppi questa sera proprio solo di danza contemporanea ed è un laboratorio di ragazze e giovani che presentano il loro lavoro. Ci sarà una solo, un duetto, e volevo aggiungere pure questa cosa adesso vedendo un po' il programma, che poi all'interno del festival partecipano anche tutti i livelli, cioè è stata data la possibilità a tutti quelli che volevano partecipare di portare il loro lavoro, sempre appunto dell'autogestione, dell'autoproduzione, quindi con quei criteri di sostenere, quindi di non prendere una retribuzione economica ma un'ospitalità, cibo da bere e quindi hanno aderito a questo sia compagnie magari che da tanti anni che fanno questo e che presentano un lavoro insomma di ricerca un po' avanzato, un lavoro proprio professionale vogliamo dire insomma, e sia invece anche gruppi che magari lo fanno da poco, gruppi magari più inesperti che però allo stesso tempo si vogliono mettere in gioco e momento cioè di prova, no? Di emozione molto forte.